294. Cosciotto o spalla di castrato in cacciaruola. Primo. Per associazione di idee, la parola castrato mi presenta alla memoria quei servitori i quali per un'esigenza ridicola dei loro padroni sono sfoghi di vanità rientrata. Si tagliano i baffi e le fedine da sembrare tanti castratoni e facce da zoccolanti. Per lo stesso motivo, cioè per la vanità delle loro padrone, sbuffano e mal si prestano le cameriere a portare in capo quelle berrette bianche, chiamate altrimenti cuffie. Infatti, quando non sono più giovani e non sono belle, con quell'aggeggio in capo sembrano la Bertuccia. Le balie, al contrario, gente di campagna, che sente poco la dignità di se stessa, con quei tanti fiocchi e nastri di vario colore adornate, indegne pompe di servitù misere insegne. Se ne tengono, gonfiando impettite, e non s'avvedono che risvegliano l'idea della mucca quando è condotta al mercato. Entrando in materia, dico che la buona fine di questi due pezzi di carne a me sembra di ottenerla nella seguente maniera. Prendiamo ad esempio la spalla e sulla medesima regolatevi nelle debite proporzioni per il cosciotto. Non ho bisogno di dirvi che il castrato deve essere di qualità fine e ben grasso. Supponiamo che la spalla sia del peso di 1 chilogrammo, benché possa essere anche di 1,5 chilogrammi. Disossatela, steccatela con lardone e conditela di dentro e di fuori con sale e pepe, poi arricchitela e legatela onde prenda una bella forma. Indi mettetela in una cazzaruola con 40 grammi di burro per rosolarla e dopo aggiungete i seguenti ingredienti: alcune cotenne di lardone o di prosciutto, un mazzetto legato composto di prezzemolo, sedano e carota, una cipolla intera di mezzana grossezza, le ossa spezzate che avrete levate dalla spalla o dal cosciotto che sia, dei ritagli di carne cruda se ne avete, un bicchiere di brodo o mezzo soltanto, 2 o 3 cucchiaiate di acquavite, tanta acqua fredda che il liquido arrivi poco sotto alla superficie del castrato. Coprite bene la cazzaruola e fatela bollire a fuoco lento finché il pezzo sia cotto. Per la qualcosa ci vorranno da 4 e più ore se la bestia è dura. Allora passate il sugo, digrassatelo e gettate via il superfluo, cioè mandate in tavola soltanto il castrato. Questo piatto si vuol guarnire o di carote o di rape o di fagioli sgranati. Se di carote, mettetene 2 grosse intere fra la carne e quando saranno cotte, levatele e tagliatele a fette rotonde per aggiungerle dopo. Se di rape, avvertite che non sappiano di forte per non avere ancora sentito il freddo. Dividetele in 4 parti, imbiancatele, tagliatele a dadi, rosolatele appena nel burro e unitele al sugo, il quale deve vedersi piuttosto abbondante. Se di fagiuoli, cuoceteli prima e rifateli in questo sugo.